La mitica, leggendaria sigla che accompagna oramai da anni, anni e anni questa importantissima rubrica cinematografica. Come? Pura storia del cinema. È la storia del cinema, come i 400 colpi. Infatti, quando mettono i migliori film, i 400 colpi, e insieme ex aequo Cellulite e celluloide, pensando che sia un famosissimo film, capisci? Buonasera Gabriele Niola. Buonasera. Alias Vasquez. Nomignolo e soprannome che ti diedi non appena giungesti in radio. Così, colto dall'ispirazione. Però ma ti chiamano Vasquez ogni tanto? Qualcuno sì. Ti chiama Vasquez? Tua moglie, tuo figlio? Sì, soprattutto mia figlia. Quanto c'ha? 5 mesi? 6 mesi adesso. 6 mesi, già parla? Mazza. No. Scrive già. Come sta? Come va? Come va la famiglia? Bene, bene, bene, tutto bene. Un piccolo idillio domestico. Oh. Avete il nido d'amore? Ma guarda, veramente, il mulino bianco. Povera donna, povera donna. Oggi parleremo del primo re. Eh beh sì, è la giornata del primo re. Abbiamo già anche i primi dati di incasso di ieri, della giornata di ieri. Qui abbiamo tutto, abbiamo. Però io ho una bomba. Eccola là. Con questa facciamo i soldi veri. Non Vasquez. Come con gli altri. No. No, tu, ma sempre lo 007, Young 007, faremo i soldi, ci potremo fare addirittura una serie televisiva, una Pensate. Serie web. Netflix ti chiama? Mi chiama e dico no, aspetto Vasquez, no, devo vedere, sono indeciso, forse do le royalties. Però possiamo fare i soldi veri. Forse do le royalties a Rete Capri, devo vedere. Forse? Do le royalties a Rete Capri, devo vedere. Rete Sole. Il sequel. Tolgo la musica? Dai. No, perché poi c'è il ronzio. Cioè, è tornato ronzio da due giorni, da ieri, da Giampaolo. Che ha fatto ieri Secondo Giampaolo? Me cos'è che lo Secondo genera? Me lui. Non, sono un mese che stiamo smontando la radio a pezzo, l'ultima volta una, mi sembra un mercoledì, abbiamo staccato tutto, cioè non c'era più niente attaccato. E c'era ancora ronzio? E c'era ancora ronzio. Stupendo. Allora, dimmi se l'idea ti piace. Il sequel di Ali della Libertà. Non puoi dire, sono tutti e due vivi. Freeman e quell'altro, come si chiama, sono vivi. Tim Robbins. Tim Robbins. Sì. Sono vivi. Ok, quindi prendiamo loro due. Da dove finisce il film? Loro in Messico. Sì. A fare a pulire la barca lì. A pulire la barca, passano un po' di anni, 2-3 anni. A un certo punto li arrestano e li mettono nel carcere messicano. E lì. Ce l'ho fatto malissimo. Che hai fatto? Sono schiacciato un piede con la sedia. Un dolore. Tu sei ma... Ho provato, cioè, un dolore. Tu sei un Castaldo, porco. Vuoi che metto una base? Oddio. Vado avanti perché sono un professionista. Bravo. E rinizia il film proprio, cioè da lì, dopo 2 anni li mettono in carcere. Si vede all'inizio un po' di vita quotidiana, loro che hanno finito la barca, poi si sono fidanzati con due ragazze messicane, vivono tranquilli e sereni, eccetera. Beh, hanno un'età, chiaramente. Hanno un'età, per carità. Di punto in bianco la polizia messicana pensa che loro siano dei narcotrafficanti. Senza una chiara ragione. Li arresta e li mettono nel peggior carcere messicano. E da lì inizia non il sequel, ma il remake. Quindi è un sequel remake mai fatto nella storia del cinema. Devi essere con me che, cioè, sequel... ai personaggi accade due volte la stessa cosa. Esatto, come ricomincio da capo. Però devi ammettere che non è mai stato fatto. Allora, c'è un sequel remake. C'è un problema. Ecco. C'è un problema. Cioè... No, allora, cioè il piede è morto. Se poi morendo, ci prendiamo una pausa, dai, aspetta. Allora, qual è il problema? Dimmi. Il problema è che nell'originale lui sta in galera diversi anni, ma tanti proprio, e quello è una delle cose fondamentali della trama, che lui sta tanto tempo lì. Ti risolvo anche questo, perché nelle carceri messicane un anno vale 10. Cioè, ti sta talmente male che vale 10. Risolto il problema. Però aspetta, lui nel primo evade con un metodo che gli ci vogliono tantissimi anni per poterlo fare. E lì rientra in ballo il sequel. Cioè, sequel, remake. Cioè, sequel, loro fanno la vita, remake quando tornano in carcere. Per uscire dal carcere, il sequel del remake del sequel. Capisci? Cioè, quindi come escono dal carcere? Escono dal carcere in un, cioè, lo fanno in maniera sparando, rocambolesca, con gli elicotteri. Okay, I suoi amici narcotrafficanti messicani. Si perde il punto del film, no? Di fare le cose con lentezza, un po' alla volta. Il fatto che lui ci mette anni a farlo. Siamo nel 2019-2020. I film devono essere sparatutto. Che cavolo. Non sarà facile far passare questa idea, te lo dico. Te lo voglio dire. Guarda, problema. Tim Robbins e Morgan Freeman hanno già detto sì. Mi hanno mandato un messaggio. Le dici tu in via informale? Un SMS, perché Morgan Freeman WhatsApp non lo usa. Fax. un telegramma. Allora, va bene, dopo queste sciocchezze possiamo tranquillamente iniziare a parlare di cinema. Allora, niente, vabbè, Massimo che mi dice che c'è il ronzio, che sia maledetto il ronzio. Ma non è vero, io non lo sento. Ah, perché tu hai un impianto ridicolo. Dai. senti la radio con gli altoparlantini del No, ma adesso in cuffia non lo sento. Ma in cuffia non si sente. Non si sente in cuffia. Ok. Va bene, allora, iniziamo. Il primo re. Due punti a capo. Il primo re. Il primo re è un film che esce questa settimana, ne abbiamo parlato ormai da mesi, anzi è... Pensa, so anche quant'è, sono 15 mesi che ne parliamo, perché io 15 mesi fa andai... Come fai a ricordare il testo? Perché era ottobre 2000, l'ho dovuto riguardare per lavoro quando è che sono andato sul set. Ah, non è che c'hai questa mente bruciante, Io pensavo fosse ottobre di quest'anno, invece era ottobre dell'anno scorso. Se no mi sarei spaventato, perché dico, cazzo, allora sto male proprio io. Sono 15 mesi che ne parliamo. E perché? Perché io ottobre dell'anno scorso andai in visita sul set e rimasi impressionato. Il primo re è, avrete cominciato a vedere magari la pubblicità, la cartellonistica, quel film su Romolo e Remo. Rimasi impressionato da come era girato, da come erano fatti il set, da come erano truccati gli attori. Poi è sempre sbagliato giudicare un film dal set, perché poi non è quella l'immagine finale. Però lo stesso, soldi spesi, grandezza, insomma, mi aveva tutto veramente impressionato ed ero molto curioso. Poi a un certo punto, parlando, ho capito che avrebbero fatto 6-7 mesi di post-produzione. Cioè che quando tu hai finito di girare tutto, finito, hai anche montato, ci sono altri 7 mesi di lavoro al computer. Di effetti speciali. Esatto, perché mi aveva impressionato ancora di più, perché poi io sul set avevo visto molte cose pratiche e pensavo questo sarà un film con gli effetti pratici fatti sul set, trucco, protesi. Ho visto delle protesi incredibili, cioè per protesi si intendono tutte quelle cose che sono finte. Io a un certo punto ho visto una foto di uno che sembrava fosse un attore, poi invece in realtà era un manichino, ma mi sembrava un attore proprio, era perfetto. E insomma, in effetti è stato così. Esce adesso 15 mesi dopo le riprese. E com'è il risultato? Comunque ha detto, ha citato Alessandro Borghi e Alessio Lapice, Lapice. Dice che loro nel fango ci si buttavano davvero, non li sporcavano di fango. Sì, vero, me l'ha detto anche a me. Io quando gli ho chiesto scusa, perché loro ci hanno tenuto a dirmi che tutti gli stunt li hanno fatti loro senza, cioè le controfigure c'erano, ce l'avevano, ma non hanno mai lavorato, perché l'abbiamo voluti fare tutti noi. E quando gli ho detto a Borghi, ma scusa, ma qual è quello più assurdo che hai fatto? Dice che si è dovuto buttare 10 volte, perché poi la scena le devi rifare, 10 volte da un albero. Che in effetti c'è questa scena che lui si butta da un albero su una preda. E l'ha dovuta fare 10 volte, chiaramente saltava su un materasso, però cioè, comunque si è saltata da un albero. Cioè non è che certo, comunque si è fatto abbastanza male, però insomma l'ha fatto. Io so un'altra cosa, so che erano talmente lerci, che anche quando poi ti pulisci, un po' lercio rimani. E l'hotel che li ospitava quando andavano a girare a Manziana, questa gran parte è girata a Manziana, ha chiesto di pagare il supplemento per le Valenzuola. Ma dai. Voluto buttare Valenzuola. Manziana l'hanno girato. Sembra, io ho visto i trailer, sembra... Che ne so, che stiano... guarda, devo dire, se vedi il film ti rendi proprio conto che è la natura del laziale, cioè che sta perché chiaramente è ambientato qua, cioè quelli ambientato, non è che per cui si vede proprio che quel tipo di sterpaglie che per noi oggi sono le porte di Roma, in realtà all'epoca era anche dentro Roma, perché poi lì è ambientato. A un certo punto loro decidono di andare cioè non ci andranno mai, ma dicono che andranno su un'isola del Tevere, quindi hai capito dove stanno, chiaramente stanno lì. Pieno di paludi, cioè com'era. Allora, il punto è, la cosa fondamentale da dire è che, primo, questo film ha un look, cioè quando tu lo vedi, internazionale, cioè non ha niente di italiano a vederlo, anzi, cioè, quando vedi proprio le prime immagini, dici, ah, questo potrebbe essere un film americano, tranquillamente proprio, senza problemi. Ha una storia che non ha niente di italiano, cioè non è quelle solite storie un po' fatte col braccino corto, anzi molto ambiziosa, con un sacco di cose che avvengono. Ha la cosa tipica americana che si svolge in poco tempo, cioè in realtà tutta la storia prende due giorni e due notti, in cui loro nell'inizio c'è l'esondazione del Tevere, una clamorosa esondazione del Tevere che investe tutto, e loro, da che facevano la vita dei pastorelli, vengono investiti totalmente da questa esondazione, rischiano di morire 80 volte nell'acqua, sott'acqua, sopra, sotto, e finiscono alla fine anche di tutto. Gli effetti speciali, e quello è stata una cosa molto grande, hanno fatto le parti dove voi li vedrete sott'acqua, sono fatte come sempre, che avviene in piscina, fai una piscina, la sporchi e giri tutto quanto là, però poi ci sono tutte le parti e loro sballottati da lontano, dall'alto, quello è tutto finto, fatto molto bene, e questa cosa, loro sopravvivono miracolosamente a questa clamorosa esondazione, che è proprio tipo tsunami, immaginatevi, e finiscono da un'altra parte, in un altro territorio che probabilmente, viene da capire, sarà, non so, una ventina di chilometri più in là, ma per loro è in un altro pianeta proprio, cioè finiscono in un altro mondo per loro, a contatto con un'altra tribù che sta molto più avanti di loro quanto a lavorazione del ferro, organizzazione, che li prende subito prigionieri. E questo è l'inizio del film. Loro, sballottati dal Tevere, vengono presi prigionieri. Nessuno ha parlato praticamente fino a questo momento. Li prendono prigionieri e li uccidono. Li vogliono uccidere in un combattimento. Cioè, prendono questi. Hanno fatto 10 persone, 15 persone prigioniere. Li vogliono uccidere in combattimenti letali tra di loro per sacrificarli a dei pagani, eccetera, eccetera. Tutta roba molto scarna. E non vi immaginate l'arena, perché quattro gatti, come era, tribù minuscole, nel fango ad ammenarsi. Da lì partono questi due giorni in cui loro riescono a scappare, scappano, uno più ferito, l'altro meno, le cose, e si forma il re. Cioè uno dei due, anzi entrambi, formano una personalità da re, solo che uno è una personalità militare, cioè è il re duro, violento. Borghi, scommetto. Eh sì. Immaginavo. E l'altro è il re religioso, il leader spirituale. E queste due cose, a un certo punto, benché loro siano legatissimi, queste cose finiranno come... Cioè, tanto lo sapete come va a finire, non è che... la storia, cose, diciamo, la storia di Romolo e Remo. Romolo e Remo, quindi sapete come va a finire. Anzi, come diceva Silvio, Romolo e Remolo. E finiranno per contrastare queste due cose. Ora, non vi dico poi che altro succede, e non vi dico chi dei due è Romolo e chi è Remo, che chiaramente è determinante, ma la cosa importante è che, a fronte di tutto questo, che funziona tutto bene, ci sono delle cose che non vanno benissimo. Però, perché ci sono delle cose che non vanno benissimo? Perché questo film non gioca nel campionato degli italiani. Questo film gioca nel campionato degli americani. E se che già dove, è una laddove cosa, gli americani fanno le cose. E già questo è un merito incredibile, no? Un merito pazzesco. Chiaramente, giocando a quel livello, avendo quel look, avendo quelle cose, ti viene spontaneo confrontarlo con quelli. E a confronto di quelli, a delle cose, a un certo punto un po' perde di ritmo. Il finale non funziona benissimo. Alcune cose non vanno proprio benissimo. Detto questo, cioè è un trionfo, voglio dire, è un trionfo arrivare lì. È come per una squadretta italiana arrivare in semifinale di Champions League e uscire. Cioè, ok, hai perso, però voglio dire, cioè, sei arrivato a un livello altissimo. Ma dici che agli americani possa piacere questo film? Allora, io ti posso dire che secondo me piace sicuramente agli europei, cioè tutti gli altri paesi d'Europa. Secondo me piace senza problemi. Gli americani, vediamo, è difficile, cioè è un altro paio di mani, perché è una storia che per loro è molto lontana. Perché loro non hanno l'uomo primitivo. Questa è una storia di uomini primitivi, sostanzialmente. Loro non ma ce parlano li hanno. O non parlano? Sì, parlano in latino protarcaico, ma poco. Quindi è sottotitolato. Ma ci sono voci fuori campo? No. No, molto secco, molto asciutto. Ci sono molti, è un po' come i film storici di Ridley Scott, che sono pieni di sogni premonitori, di queste cose qua. Dicevo, secondo me tocca molto più il pubblico europeo, perché siamo abituati a che quelle sono le nostre origini, mentre invece per gli americani quel tipo di storie sono o i Maya per i centroamericani o gli indiani, che però chiaramente non è uomo primitivo, è tutta un'altra cosa, è un altro paio. Vabbè, di però Maya. Noi abbiamo esportato la Roma, no, la Roma, sì, antica, diciamo che non ha con quel tutte fascino. Quelle, con tutte, che ne so, con tutti quei film su Roma, certo, eccetera. Certo. Diciamo che questo non ha quel fascino, perché invece è un film molto... Il gladiatore, dico uno per dire, anche se lì eravamo qualche secolo avanti. Sì, sì, certo, però diciamo questo qui è proprio un film veramente di palafitte e fango, di roba proprio, anche è fatto bene, vedrete le facce di questo film, a parte i due protagonisti, che chiaramente sono due attori, e gli altri hanno delle facce veramente da proto-umani, cioè prima dell'essere umano, un po' anello di congiunzione con la scimmia, come si muovono ogni tanto, hanno un po' di lavoro, quindi è proprio veramente una roba da uomini primitivi, però insomma ci sono due o tre momenti molto forti, molto forti. La lotta per rimanere vivi in questa campagna laziale chiaramente è terribile. Ci saranno delle paludi velenose, ci sono dei posti che oggi non esistono più, ma insomma che sono incredibili. La lotta per questa gente di rimanere viva, l'obiettivo è rimanere vivo ogni giorno, devo dire, è incredibile. A me so che il regista ha studiato tantissimo, ha fatto tante ricerche, è stato fatto con molti storici. Vedete, ci sono molte cose che voi direte, ma che davvero già avevano questo? Molti storici hanno confermato, sì, era questo. Io per esempio non sapevo che già all'epoca lavorassero il ferro a livello da avere delle spade più o meno simili a quelle che abbiamo oggi, io non credevo, invece sì. Insomma, ci sono tante cose particolari, però insomma, al di là del merito storico, è un film che veramente ti impressiona, veramente ben fatto. Il box office di questo film, questo, cioè da di praticamente ieri. Ieri, box office di ieri, ahimè, va male. Come va male? Va male. E io un po' l'avevo capito, perché questo film non lo stanno promuovendo. Non mi chiedere perché, queste sono cose che io non riesco a capire. Ma Rai Cinema, che è il distributore del film, non lo sta promuovendo. Questo film doveva... Ah, questo film, una cosa così, andava promossa da settembre. Da settembre ci dovevano martoriare delle prime immagini, i primi trailer, i cartelloni, e poi ci sta il ministro che dice: ah, ma non si buttano così i soldi, e poi c'è lo storico che dice: ma non era fatto così, che se ne parla continuamente. Così doveva essere la promozione di questo film. Invece, bene o male, come avete visto, se ne è parlato pochissimo, se ne è parlato un po' in queste ultime due settimane, proprio a ridosso dell'uscita. Sì, sì. Noi ne abbiamo parlato mesi e mesi fa. Noi siamo avanti, chiaramente. Allora, insomma, è una cosa di cui che adesso pagano, chiaramente. Secondo te perché? Allora, questo lo dicono in molti, che il problema è quando ti affidi alla distribuzione della Rai. La distribuzione della Rai è molto grande, molto importante, ma ha talmente tanti film da distribuire che non li cura a sufficienza. Tant'è che molti preferiscono andare con i più piccoli ed essere curati meglio, magari. Loro hanno fatto questa scelta, magari non era neanche una scelta, perché il film è un po' anche co-prodotto dalla Rai, quindi non potevano neanche scegliere, magari, cioè dovevano per forza andarci, non lo so. E sono rimasti un po' fregati. Ti faccio un esempio nel piccolo. Solitamente quando tu ti capita che vai sui set e fai le visite sui set, poi diciamo te la liberano, puoi dire quello che hai visto due mesi prima, perché no, è la prima cosa che comincia a uscire. A me me l'hanno liberata due settimane prima. Cioè, io lì ho capito che era inutile. Cioè, che stiamo a fare? Siamo arrivati sotto. Cioè, questa roba doveva partire prima. Ad alcuni so che gliel'hanno. Io perché ho rotto un po' le scatole, perché a un certo punto ho cominciato a chiamare. Oh, ma che dobbiamo fare? Alcuni so che gliel'hanno liberata dopo l'uscita del film. Cioè, proprio, vabbè, buttata. Ah, perché tu stai qui, trasmetti qui, quindi. Sì, no, io ho detto. Cioè, adesso vi sto chiamando io, ma io vi dico che Faster si è arrabbiato. Io ho detto questo. Sono infatti, spaventati? Me l'hanno liberata. Beh. Ah, sì, cioè. Va bene, insomma, non farà vi consiglio di andarlo a vedere. Comunque è una roba molto bella da vedere al cinema, una roba italiana di Guendar Fieri. Poi è un bel film proprio, per cui ve lo consiglio proprio. Però insomma, non sta andando bene. Si avvia a fare un milioncino, che niente, questo ne è costato 10. Rientrerà, perché con le vendite non è un problema. Però questo è un film che doveva avere un altro impatto. Cioè, ecco. Doveva fare 5-6 milioni. Sì, ma doveva anche dare un segnale a tutti. Oh, facciamone altri. Questi vanno sveglia. Bene. E invece... Anche perché stanno andando le serie di questo, di quel periodo storico lì. Sì, vanno. Ma infatti non... I vichinghi, le cose... Questa era un'operazione fatta quando è partita con quell'idea. Questa è una cosa che ci farà fare incasso. Cioè, una buona idea per incassare. Avrebbe potuto... Cioè, poteva diventare anche una serie. Sì, pure, esatto, pure, facilissimo, però è così. Sarebbe interessante, adesso magari sarà difficile parlarne adesso con chi l'ha fatto, però tra qualche mese cercare da capire anche da chi l'ha fatto dove è stato il problema. Sira, so che tu devi fare delle domande a Vasquez. Sì, Devo fare un paio di domande al basket, ecco. Però ne volevo fare una sul, su questo film. Ma la passione di Cristo e Mel Gibson come è stata accolta dal pubblico? Perché anche quello, ti ricordi, era sì. in aramaico. Allora no, quello diciamo però gioca... Tu dici, la lingua non impatta sulla risposta del pubblico? Io non credo. Secondo me il paragone più giusto non è la passione di Cristo, ma è quello che Mel Gibson fece dopo, che è Apocalipto, mm-hmm. che era in lingua maya. Perché la passione di Cristo è falsato dal fatto che ha avuto un successo, ma senza precedenti, perché aveva tutto l'appoggio di tutte le comunità cristiane. E questo quindi vuol dire cinema parrocchiali, rassegni di continuo. Okay. Quando hai questo appoggio, è chiaramente questo falsa i dati. Certo. Apocalipto andò abbastanza bene, non benissimo, ma andò abbastanza bene. Quindi io non credo che sia la lingua quello che ti tira fuori. Anche perché, come dicevo, nel film si parla abbastanza poco. Per cui non è neanche una cosa che ti può dare fastidio. E poi, sinceramente, se tu lo vai a vedere, capisci immediatamente... No, non era possibile che questi parlassero italiano. Cioè, stona troppo. Cioè, questi così distrutti, sfondati, e poi parlano italiano. No, non certo, si può. Ti fa troppo certo. strano. Va bene, no. Le domande che devo fare a basket sono sul... Su Berlino. No, su due cose. Uno è l'ultimo film di Lars von Trier che hai visto, però magari ne parliamo dopo, quando volete. Qui mi insomma. Arriva un messaggio dove c'è scritto: Sira ha delle cose da chiedere a Vasquez, specialmente in vista di Berlino. Attenzione. Attenzione. No, uno è il film di Lars von Trier. Sì, che ho visto l'anno scorso. Che tu hai scorso. Visto a Cannes, sì. so. Sì. E sì. che sta per... Adesso a breve sarà disponibile. E poi l'altro è... Era... Mi sembra si chiami, sì, credo Federico, scrive, e niente, doveva farlo Zalone. Grande. Vince. Ha vinto, sì, ha vinto. Complimenti, Federico. Prego, Sira, scusa. No, vabbè, poi era sul cinema giapponese, avevamo detto di parlare di un altro, del film di Kitano che preferivi te. Ok, allora, per quanto riguarda Lars von Trier, devo dire che il film a me non è piaciuto proprio. È una cosa che, secondo me, è scombinato proprio. Ha dei toni ironici, una storia di un serial killer con dei toni ironici, ma mi sembra che non funziona niente. È un finale che per me è terribile, proprio l'ho respinto. So che a molti però è piaciuto, come spesso capita in questi film molto decisi, che prendono, poi c'è sempre chi li apprezza, ma giustamente, alle volte sono io quello che li apprezza, i film molto, molto decisi che vanno in una direzione. Non è questo il caso, però so che sta per uscire in Italia, no? È sì, vicino infatti. All'uscita. Invece per quanto riguarda il tuo film Kitano, preferito di Takeshi Kitano, allora, ce ne sono due. Uno, io vado matto per Kids Return, che è un film dove non c'è lui. È una cosa strana, solamente lui c'è sempre nei suoi film, che è stranissimo. È una storia di due ragazzi, bellissimo, mi fa impazzire. E invece diciamo dei film dove c'è lui, un pochino più classici suoi, storie di gangster, come lui fa sempre. Io ho la passione per Sonatine. Ah, ok. Che è un capolavoro, a cui a un certo punto loro vanno al mare, a un certo punto accadono delle cose senza senso, finiscono al mare e diventa un film di mare, un beach movie stranissimo, però insomma lo apprezzo moltissimo. E poi, ultimo, devo dire pure questo, c'ho la passione, insomma, perché a me piacciono un sacco i film di menare, c'ho la passione per Zatoichi, il film in cui lui Zatoichi, fa il samurai, che è bellissimo. Bene, bene, va bene, grazie, questi me li andrò a vedere. Future of the planet. I'm the necessary shock to the system. I am human evolutionary change. Bulletproof. Superhuman. Who the hell are you? Bad guy. The mission has been compromised. We need help. Avete ascoltato e visto, per chi ha la televisione digitale in 4K, il trailer ufficiale di Hobby e Swan, il primo trailer italiano dello spin-off di Fast and Furious. Devo dire che è veramente eccessivo. veramente eccessivo. E quindi complimenti, perché chiaramente la saga di Fast and Furious su questo si basa, sul rilanciare sempre di più. E devo dire che questo spin-off con Dwayne Johnson e Jason Statham, che è un po' Tango e Cash, se l'avete visto, no? Due dalla parte dei buoni, diciamo, due poliziotti che però non si sopportano eppure devono sfondare tutto insieme, un po' mi ha conquistato questo trailer. Cioè Dwayne Johnson è ancora più pompato, è immenso, cioè, penso che è veramente immenso, ha due braccia così grosse, sembra il mio corpo. Va bene, ma veniamo ai film di questa settimana, se Sira ha terminato le sue domande per la tesina. Sì. Allora, questa settimana abbiamo detto è uscito Il Primo Re, ed è uscito un film che pensa doveva concorrere agli Oscar, ma bene o male non ci è arrivato, perché insomma poche nomination, perché il suo protagonista ha detto una cosa fuori luogo. Questo, gli americani sono completamente folli. Allora, il film è buono, si chiama Green Book, è un film buono, è un film, ve lo dico subito, classico, cioè è un film che adesso vi racconterò bene o male che dice la trama, ma potete immaginarvi bene o male tutto quello che avviene nel film, quindi non punta a stupirvi, no, ma è molto ben scritto, molto ben interpretato e fa il suo lavoro classico molto bene. È la storia di un vero musicista, adesso ti dico come si chiama, perché era un jazzista con delle velleità da musicista classico degli anni 60 americano, devo guardare perché ovviamente non me lo ricordo. Don Shirley, non lo conosco. Sì, perché faceva più che altro poi musica classica, si era spostato. Questo musicista che ha intenzione di fare una cosa abbastanza rivoluzionaria negli anni 60 in America, vuole fare una tournée negli Stati del Sud, dove non è che vedano di buon occhio i neri, e si prende un autista bianco, si prende, perché gli serve per fare anche, insomma, autista guardia del corpo, insomma, cioè glielo dice subito che questo, facciamo un viaggio rocambolesco, insomma. Lui, il musicista, è veramente una persona puntuta, molto educata, gran classe, addirittura pensa che non conosce, tutto gli fa sentire Aretha Franklin, gli fa sentire Little Richie, lui non le conosce. Per dire che tipo di educazione ha avuto, non mangia le cose con le dita, cioè. Mentre invece questo qui è un italo-americano di poche parole, molto spiccio, molto rapido. È una storia vera, ovviamente, è stata fatta, è stata prodotta anche con gli eredi di questo autista, quindi insomma, è tutto corretto. È un film molto sempliciotto, chiaramente avete capito, è un film anche sul razzismo, evidentemente, no? È molto, su questo tema è molto sempliciotto, non è che ci siano queste grandi considerazioni. La parte più bella è il confronto tra queste due persone, è un film molto umano, molto divertente, chiaramente da ridere, un film proprio classico americano, una lacrima per ogni sorriso. Però no, veramente devo dire, sono rimasto impressionato. A me solitamente un po' disprezzo queste cose fatte con poca fantasia, ma devo ammettere qui la fattura è tale che è proprio un film che ti godi alla grande, ti diverte quando ti deve divertire, anche quando è banale va bene, va benissimo. Doveva andare agli Oscar, sono un film tipici da Oscar, questo alla fine è A Spasso con Daisy ribaltato, cioè il bianco che guida il nero dietro. Doveva andare agli Oscar, era perfetto, ma a un certo punto, pensate che punto stanno gli americani, Viggo Mortensen, che è l'autista bianco, in un'intervista, anzi in una conferenza, quindi con tante persone, un pubblico e un moderatore, a un certo punto dice, all'epoca era diverso, il mio personaggio, no, prima parte molto razzista e poi invece capisce le cose, pensate che no, inizialmente il mio personaggio dice molto la parola negro, invece poi no, capisce che è tempesta addosso a lui perché ha detto la parola negro. Ma va. Ma lui in realtà diceva che altri dicono, cioè non so come dire, no, ho certo nominato quella parola, però io, cioè, tempesta, niente nomination, niente di niente. Cioè proprio, cioè lui stava spiegando che l'attore, diciamo, il protagonista, sì, il personaggio doveva dire negro. Tra l'altro lui diceva sbagliando, no? Sbagliando diceva negro. Niente, l'hanno passato. Sì. Dai. No, una follia. Quindi poche nomination. La nomination l'ha presa l'altro attore, che comunque è molto bravo. È un attore che adesso sta facendo tutto, perché in questo momento sta in True Detective 3. Bella, sto seguendo, bella. Sta in questo film. Sta in un altro blockbuster molto grande che ho visto adesso, che si chiama... guarda, è incredibile che non viene il titolo. Alita. Alita, che esce tra un po' ed è un bel blockbusterone, bello grosso, insomma, quindi sta facendo tantissime cose. Lui si chiama Mahershala Ali, e niente, questo film non prenderà quello che deve prendere perché questo motivo, però insomma voi andatevelo a vedere perché è un bel film proprio. Ha chiamato qui un tizio, sta cercando un autista, ti interessa? Devo andare in tour nel profondo sud, mi dica, è bravo in qualcos'altro? Pubbliche relazioni. Prevede qualche problema a lavorare per un uomo di colore? Lei nel profondo sud? Prevedo casini. Prometti che mi scriverai una lettera? Te lo prometto. Stiamo per interagire con alcune delle persone più facoltose d'America e ritengo che dovrebbe comportarsi in maniera più raffinata. Avanti, mangi qualcosa. Preferiscono macchiare di grasso la mia coperta. Mi si macchia di grasso la copertina. Mi hanno comunicato che non mi è permesso cenare qui. Temo di no. Perché fa tutto l'educato con quei coglioni? Perché per cambiare i cuori delle persone ci vuole coraggio. Che regista che sono, porca miseria. Ah, guarda, incredibile. Mi sorprendo di me stesso talvolta. E sono, non è tu una cosa, il Green Book, il titolo, fa riferimento a un libro che esisteva sul serio all'epoca, che era una guida, aveva la copertina verde, quindi era chiamato Green Book, che era una guida di tutti i posti negli Stati del Sud in cui i neri possono andare e di quelli in cui non possono andare. Quindi loro dovranno fare questo viaggio, no? Che non lo fanno entrare in certi hotel, anche benché lui sia, cioè, un musicista incredibile, poi va a fare delle performance con una marea di pubblico, le cose, però lo stesso poi deve andare al bagno in un altro palazzo, le cose assurde. E chiaramente farà fatica, il suo autista, che invece è più terra-terra, farà molto fatica a capire tutto questo. È butta fuori lui. Sostanzialmente sì. È uno che se a un certo punto si mangia una pizza gigantesca, gigantesca piegandola in quattro. Una roba proprio... È molto forte perché è un film, una commedia, quindi non un film comico, una commedia che è più soft, da i registi, da uno dei due fratelli che hanno fatto una valanga di film proprio invece comici, cioè sono quelli che hanno fatto Scemo più scemo, Tutti pazzi per Mary, Io me Irene, che insomma invece erano film molto grossolani, invece fanno questo, uno dei due ha fatto questo film molto sottile in cui chiaramente gioca molto meglio, gioca più di fioretto con l'umorismo. Oh, la mia spia mi informa che Robert Rodriguez, il regista di Machete, sta uscendo con un nuovo film, ma nessuno lo vuole far sapere. No, non è vero, nessuno lo vuole fare. Ancora deve cominciare. La mia spia è informatissima. Posso dirti, io già l'ho visto. Ma non ne posso parlare. Eccala. Quando l'hai visto? Perché nessuno lo vuole far sapere, non ne posso parlare. L'ho visto una settimana fa, ma sono sotto embargo fino a, insomma, tra un po' di settimane ancora. Non si può dire niente? Non posso dire niente, di io solo raccontare la trama, perché cioè quello lo sta già in giro, non è che si trova segreto, non è un segreto. Sì, sì, sì. È tratto da un fumetto giapponese, è un film a grandissimo budget su un futuro. In cui un medico che si occupa di fare impianti robotici alle persone, perché tutti quanti hanno degli impianti robotici in questo futuro. Nel futuro, oggi, futuro. Trova questa testa nella discarica, testa come di robot, ma scopre che in questa testa di robot c'è un cervello umano, che è una cosa rarissima, e allora gli costruisce un corpo intorno, gli ridà la vita, tipo Frankenstein, però molto meglio, corpo carino, e comincia a scoprire questa qui chi era, e si scopre quasi subito che questa 3000 anni prima, che comunque è il nostro era futuro, ma non futuro. 3000 anni prima aveva combattuto in una guerra lucente, erano i corpi speciali di questa guerra incredibile che ha cambiato il pianeta, quindi lei ha tutto delle cose che non sa, ma da guerriera. E vabbè, poi adesso non vi dico che succederanno mille cose, non si può dire, c'è l'embargo. Anche la mia spia dice che l'ha visto. Ma non è possibile. L'ha visto. Che spie che hai. Gliel'ho scaricato io. Che si vede la gente che passa davanti, si muove la telecamera. Soprattutto, adesso mi sono ricordato, soprattutto io non posso dire niente qua, non solo che questa è la trasmissione più ascoltata del pianeta e quindi ce lo verrebbe a sapere chiunque, ma soprattutto, se ti ricordi, che io ero andato a un certo punto in una major, che ci sta una nostra ascoltatrice là, che e questa è la major, capito? Quindi comunque proprio saremmo smascherati subito, ma io non l'avrei fatto comunque. Fate sapere ai capi che non l'avrei fatto comunque. Non l'ha fatto, non l'ha fatto. Potete continuare a dargli bustarelle. Sì, esatto. Io mantengo la parola. Sono fedele. Allora, tornando a bomba, Green Book ne abbiamo parlato. Un bel film da vedere. Mentre Il primo re, L'esorcismo di Anna Grace. Ecco, questo è proprio... cioè, comunque, è un film che, diciamo, più rapido. Allora, vi siete mai chiesti che fine fanno? Questa poteva essere un'idea tua, eh? Anzi, posso dire, questo è un film che a me non è piaciuto per niente, ma secondo me, sai che a te potrebbe piacere. Adesso gli è presa così. ha visto queste cose. Allora, l'idea, guarda, potrebbe essere una delle tue idee miliardarie. Sì. Non l'hanno fatta bene, non faranno i miliardi, però tu l'avresti fatta meglio. Non c'ero meglio, io. Certo. Non c'ero. Però poteva, nel senso, ti sei mai chiesto cosa succede? Ai corpi delle persone possedute dal demonio nei film di esorcismo, quando poi finisce tutto, il demonio è cacciato, oppure, anzi no, non il demonio è cacciato, cioè non ce l'abbiamo fatta a cacciare il demonio, il corpo è morto, questa persona è morta perché il demonio... Ah, morto, non il sequel della vita. No, questa persona è morta, basta, perché non ce l'abbiamo fatta a scacciare il demonio, l'abbiamo dovuto ammazzare, esatto. È morto. Che succede poi a questo corpo? Cioè, quando questo corpo posseduto finisce all'obitorio, cioè, il diavolo c'è ancora, non c'è? E se qualcuno si è sbagliato? E se il diavolo è rimasto? Non vedo. Questo film comincia all'obitorio, anzi comincia con un esorcismo che finisce male, e per in realtà si svolge tutto in un obitorio. Ah, bello. Vedi? Mi interessa. Allora, la trama, devo dire, parte bene, nel senso che all'obitorio arriva questa novellina che poi scopriremo in realtà c'ha un passato turbolento, ma arriva questa novellina al suo primo giorno che deve fare la prima notte. No, deve fare il turno di notte all'obitorio. Sempre E gli dicono subito la cosa che gli dicono subito, cioè guarda, la notte è difficile perché quasi tutti, visto che insomma stai all'obitorio, si fanno suggestionare, vedi cose, senti voci, però insomma tieni duro, ecco. In realtà chiaramente succederà di tutto, ovviamente. Immagino. Quindi è un po' un film di esorcismi, ma anche no, perché poi non è che c'è l'esorcismo, cioè proprio la lotta contro il demonio, e un film di invasione, perché il luogo è chiuso, non possono uscire, sono lei, le guardie giurate, queste cose. Ah, non è eccezionale! Cioè, ma è uno sparatutto, cioè si menano. No, film di orrore, di demonio. Allora, la cosa che fa un po' ridere di questo film è che solitamente, cioè, c'è una cosa dei film di esorcismo particolare, è che sono film, diciamo... che fanno riferimento alla mitologia cattolica, perché l'esorcismo è una cosa che ha solo la religione cattolica, non il cristianesimo, solo i cattolici. Per cui anche in questi film il demonio è una cosa molto forte, cioè anche di sacrale, capito? Cioè il demonio, il massimo del massimo. Mentre invece qui è un po' vabbè. Cioè, è un po' come Freddy Krueger, capito? Poi gli si mena anche se scappa la cosa, ecco. Una pistolettata per vedere se funziona. A un certo punto, alla fine, due pizze a una certa... quando ci vuole, insomma. Per cui, ecco, no, non c'ha quel tipo, quest'aura dell'esorcista, per dire, no, dove il demonio mette veramente paura. Qui, un film metto che è mette un po' paura, insomma. Però a un certo punto ci si dovrà sporcare le mani, ecco, vi dico come finale. Il finale è proprio, vabbè, ce ne siamo sbarati. Questo lavoro non è per tutti. Per via degli orari? Perché tutti i colleghi sono cadaveri. So che hai avuto dei problemi. Sì, ho avuto dei problemi. Ma sto molto meglio ora. Benvenuta nella squadra. Tu sei quella nuova? Megan. Ho un caso strano per te. Si chiama Hannah Grace. La famiglia le stava facendo un esorcismo o qualcosa del genere. Papà. Qualcosa è andato storto. Il demonio sarà scacciato! Ed è morta durante il rito. Sai come si dice? Se un esorcismo non viene completato, il male troverà un nuovo corpo. Che regia. Allora, andiamo avanti con i film. Oh, l'ultimo film che esce questa settimana è... Ma ne escono 3-4, poca roba. Settimana poco, è vero. In compenso, la settimana scorsa che tu non c'eri, le decine. È Dragon Trainer e il mondo nascosto, che è il terzo capitolo della saga di Dragon Trainer, quindi parliamo di cinema d'animazione, che io proprio non ho apprezzato. Veramente non ho apprezzato. Allora, il primo film di Dragon Trainer, ormai tanti anni fa, devo dire, mi era piaciuto parecchio. Era veramente un bel film. C'ero rimasto, aveva un sacco di idee nuove, un sacco di cose. Perché ci lavorava Chris Sanders è uno dei grandi eroi non raccontati, in pochi conoscono il suo nome, non viene raccontato perché poi lui è una persona abbastanza schiva, però è uno dei grandi eroi dell'animazione dei nostri anni. Ha realizzato, probabilmente se l'avete visto vi ricordate sicuramente di Lilo e Stitch, che è uno dei film più assurdi mai fatti della Disney, l'aveva fatto lui. Poi aveva fatto anche I Croods, che era un altro film d'animazione sull'uomo primitivo stranissimo. Insomma, è uno molto sveglio, con un sacco di idee, che non fa nulla di normale, tant'è che il primo Dragon Trainer è un film animato per bambini con tutte le crismi limite del caso, ma pieno di gente mutilata, per dire, che è una cosa stranissima. Era molto sveglio, insomma. Il secondo già non mi era piaciuto, questo terzo proprio adesso basta, tanto che qui finisce la saga. Se l'avete seguita vi posso dire che ormai, no, sapete che il mondo i vichinghi vivono in armonia con i draghi, ormai, e sono diventati un po' tipo Greenpeace, che vanno con questi draghi a fare delle incursioni nelle navi dei cattivi. Sì, perché vanno nelle navi dei cattivi che cacciano i draghi e li liberano. Quindi fanno un po' queste azioni tipo Greenpeace. E starebbero bene qui in Italia. Sì, esatto, alla grande. E chiaramente a un certo punto la cosa forte è che loro un po', veramente un po' come Greenpeace, cioè loro fanno queste cose che vanno a liberare i draghi, tutti gli altri, cioè quelli che i draghi li cacciano e li odiano, si rompono altamente di questa cosa e questi arrivano, gli rovinano gli affari e ingaggiano un grandissimo cacciatore di draghi che chiaramente si contrapporrà a loro, quindi tutto il film è, no, cacciatore di draghi contro di loro. C'è anche un espediente che a me non piace molto, per cui il drago protagonista troverà un'ultima femmina della sua specie, quindi ci sarà tutta la parte romanticona del corteggiamento che è abbastanza che è abbastanza stucchevole, non fatta bene, insomma, non carina. Insomma, io sono molto molto, credo addirittura che in una scena d'azione di aver schiacciato un piccolo pisolino, proprio, sì, proprio non, veramente un film che non mi ha preso, proprio la banalità fatta film. Portateci i bambini. Che? Ah, portateci i bambini. C'è Dana De Rosa, sindaco del cambiamento. Auguri. Questa è un'azienda seria. Noi non costruiamo mica delle capannine di fango in Africa. Dietro il personale. Chi se ne frega? Io sono Missaron. Che cos'è questa pubblicazione? E questa è sua figlia che si sposa. Tuo figlio si sposa. E chi è lei? È un influencer. Ah, un medico. Pensi com'è piccolo il mondo. Cioè, per me, per lei e la sua taglia. Scommetto che lei sceglie la destra, vero? Io scelgo il nord. Sei del nord eppure ricco! Oh, Barbara! Dove trovi il sistema per... Per far saltare direttamente il matrimonio? Magari. Madonna, mi piacciono le donne come lei. Belle, profiterole. Dolci, ma con le palle. Finalmente qualche buona battuta! Bah! Questo è veramente un film, abbiamo parlato l'altra volta che è uscito settimana scorsa, è un film bruttissimo, pensa che volevano rifare con questo, anzi lo spacciano così, come un film che un po' strizza l'occhio a Totò Fabrizi e i giovani d'oggi, perché ci sta, no, lui piccoletto, l'altro grosso, genitori dei figli, no, ma proprio, no, a parte che è un altro film, cioè in realtà il modello, come diciamo l'altra volta, è un altro, non mi è quello. Mi copiano le idee, mi copiano i remake. E poi è venuto molto male, insomma, l'abbiamo parlato appunto l'altra volta, è un film molto lasciato a loro due, che sono bravi, Salem e Badantuono, ma chiaramente non si può improvvisare un film intero, no? Non è possibile. Ti annuncio che Bohemian Rhapsody ha totalizzato 27 milioni di euro e spicci. Beh, l'avevamo detto l'altra volta che è entrato nella top 20 dei più grandi incassi italiani di sempre. Porca miseria. A proposito dei più grandi incassi, è ufficiale autunno 2019, questa è la nuova data d'uscita, e quindi che Cozzarone è nuovo. Ah. Si chiamerà, non si sa se si chiamerà L'amico di scorta, questo forse è il titolo, o una roba che devo dire non mi ricordo più, ma è tipo una parola africana, tono tono, una cosa del genere, non mi ricordo più com'è adesso, perché sarà molto girato in Africa. In Africa? Sì, molto molto girato in Africa, avrà a che vedere con i rapporti Africa-Italia, questo è quello che al momento si sa. Come sapete, che è una notizia nota, diretto dallo stesso Checco Zalone, che non aveva diretto gli altri, si faceva dirigere da Gennaro Nunziante. Non che Gennaro Nunziante fosse questo gran regista, però insomma, io sono sempre preoccupato quando poi questi fanno il passo da regista, perché in realtà, boh, secondo me non ci guadagna nessuno. Però vedremo, vedremo come sarà. Certo, Bissare... No, non può, però insomma, vediamo che succederà. Quant'erano, 60 milioni? 57, 58, sì, sì. Vediamo, vediamo come va, cioè... Sarebbe clamoroso già farne 30, chiaramente. Beh, però sono quanti 3 anni che non fa film? Io credo alla fine 4. Vediamo di quando era l'ultimo. Mentre non ci resta che Il crimine ha fatto 4 milioni e 3, insomma. Rispettabile, rispettabile. Io pensavo peggio. Quo Vado è del 2016. Quindi 5 anni. No, saranno 3 anni, 3 anni. 2019, 17, 18, 19. Sì, saranno 3 anni. Ho detto 4, però insomma. Autunno, autunno o Natale? Secondo me lui scavalla, va a gennaio 2020, così ha fatto 4. Dice, eh? Secondo me perché non dovrebbe farlo? Primo gennaio 2020. Secondo me non vedo perché non dovrebbe farlo. Tanto un po' di soldi ce li ha. No, ma tanto dove si mette lui si levano gli altri, non è un problema. Cioè, credo, lui deve solo scegliere lui la data che gli piace. Pensa se fa un flop. Ah, cioè, un milione, tipo. Penso se fa un floppone. Sarebbe incredibile. Anche perché... Ma allora, la sceneggiatura chi la scrive? Il regista o lo sceneggiatore? Sempre lui, no, sempre lui la scrive. Ah, lui scrive, ha scritto sì, tutte sì, le... Sì. Pensa che il... Quo Vado, che già veniva da grandi successi, è costato proprio tanto. Anche se poi, insomma, i produttori si arrabbiano quando uno dice questa cosa, ma non si vedono tutti questi soldi, però è costato parecchio. Infatti no, questo costerà più di Quo Vado. Vedremo che saranno, adesso non lo so, però insomma... Ma tanto che vuol dire? 5 milioni? 10, 10 e... anche 12. Sì, sì, che per un film del genere è incredibile. Se pensate che Il Primo Re è costato 9... E lì si vede, cioè il Primo Re c'ha, non so, 90 persone al trucco, cioè, è pieno di lavoro, cioè tanti comparti, non solo, poi costa molto il tempo, perché quello è un film, Il Primo Re, dove hanno cominciato molto prima del solito, cioè la pre-produzione è stata lunghissima, preparare i manichini, preparare le location, tantissimo, costruire i villaggi, e poi, come abbiamo detto, anche dopo, quindi insomma, quello, tutto quello costa, incide nei costi. Questo film adesso non so in cosa andranno i soldi, sarò curioso di vedere. Porca miseria. Vabbè, però insomma, devo ancora vederlo questo, non ci resta che Il Crimine, mannaggia. Ah, non l'hai ancora visto, ancora no. Non hai trovato il tempo di andare in sala. Bravo, e andare al cinema, comprare il biglietto e andare a vedere questo film, pensa. Ci andrò però, lo farò. Dimmi, perché... Sira. Volevo chiederti, la prossima settimana, se non sbaglio, inizia il Festival di Berlino. Confermo, infatti non ci sarò. Ah, vedi. Come non ci vai? Non vai a Berlino? No, non ci sarò, no, non ci sarà no, qui. Ah, non sarei qui. Vai a Berlino? Con una famiglia sulle spalle tu vai a Berlino? Certo, come i grandi emigranti, da lì mando soldi alla famiglia a Roma. Vai con la borsa di cartone. Senti, e che film, insomma, dici qualche titolo? Moscissimo. Moscissimo. Ci sono un sacco di film italiani poco noti, cioè di autori non noti. Il più noto è quello che sta in concorso, si chiama La Paranza dei Bambini, come intuite viene dal libro di Saviano omonimo, diretto da uno dei registi della serie Gomorra, di quelli che sono arrivati dopo Solli, ma è uno molto bravo questo, perché viene da, ha iniziato con il cinema d'autore, quindi roba a piccolo budget, grandi risultati ai festival, ha fatto Fiore, che è un film stupendo, poi è andato a fare cose più commerciali, no, Fiore è proprio bello, Fiore è un film su due ragazzi carcerati, perché li mettono subito, nella prima scena lei va a fare le rapine col taglierino nella metropolitana di Roma, li mettono in galera, galera donne, galera uomini, ma confinano, e loro hanno questa storia che non riescono a, proprio gli scappa da tutte le mani, fanno di tutto per stare insieme. Sì, sì, molto, a me è piaciuto un sacco Fiore. Comunque, da lì è passato a fare cose commerciali, cioè l'hanno preso a fare Gomorra, uno dei registi della serie di Gomorra, e adesso fa questo film che è tratto da Saviano, quindi ha buone chance di incassare, perché comunque, insomma, la cosa è stato preso a un festival, che vuol dire che ha un certo profilo. Vediamo, sono molto curioso di sapere che ha fatto. Ma Gomorra la serie? Hai già visto qualche cosa? Ancora non ho visto nulla, no. Quando dovrebbe uscire? Ci siamo, no, è uscita, scusa, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ci siamo, attenzione. Ci siamo. No, no, è uscita la data in cui esce, scusate. No, no. Non ho visto nulla in download. Download streaming, intendevo. Sì, sì, perché adesso Skype consente anche il download. Sì, sì, sì. Allora, il 29, senti, 29 marzo inizio. 29, ci siamo quasi. Diretta da, molti degli episodi sono diretti da Marco D'Amore, che è Ciro l'Immortale. Ha fatto diventato questo regista? Salto. Lui gli interessa quello, io ho capito che lui gli interessa quello. Cioè vorrebbe anche, adesso con molta calma, molta lentezza, vorrebbe anche smettere di recitare e passare lì. Vediamo, vediamo come si compone, cioè vediamo che tipo di regista è, curioso. Però insomma, molto, molto. Ma come si diventa registi? Attraverso, allora, il punto è che attraverso il lavoro di attore... Allora, il punto è che se Per esempio, un attore... Fellini ha mai fatto l'attore. No, non è quello il percorso usuale, chiaramente. Ci sono molti modi per dire... Il punto è, il regista chi è? Il regista è la persona a cui un produttore affida il film. Allora, come faccio io a farmi affidare un film se sono un attore? Cioè, dimostri che io so come si fa un film, perché ne ho fatti tanti, perché lo conosco, e magari solitamente... si fanno dei cortometraggi prima per far vedere a un produttore che c'ha più l'occhio, vedi, so manovrare un set, questa scena non era facile, l'abbiamo fatta, è venuta bene, quanto hai speso? Ho speso questo, però bene, e allora magari te lo affidano. Una persona normale che non ha niente, che non fa l'attore, una cosa, solitamente una volta faceva le scuole di cinema, oppure cominciava a fare l'apprendista sui set. Vai sui set, fai l'apprendista, fai l'aiuto regista, impari, vedi come si fanno le cose, impari e poi comincino. Vabbè, c'è la avere... scuola di cinema a Roma. Certo, certo, l'Accademia Nazionale di Cinema, ce ne sono anche due, tre. C'è anche quelle, quella è quella statale, la più grande. Poi ci sono quelle private, insomma, non hanno lo stesso impatto. Però insomma, ti insegnano il mestiere, indubbiamente. Mm. Adesso la cosa buona è che i mezzi costano molto poco, non costa niente. Una videocamera seria professionale, cioè, costerà 2-3 mila euro, che è niente. Insomma, poi si possono anche affittare a poco. Per cui puoi girare anche da solo, se conosci qualcuno, qualche attore decente. Insomma, se no, sviluppi una rete di amicizie, te li puoi distribuire online. Ci sono diverse persone, diversi registi che hanno lavorato in America e lavorano in America a buoni livelli. Hanno cominciato con un corto online pazzesco, facendo una roba online che ha girato il pianeta. Perché stravisti, per esempio è il caso del regista dell'ultimo film della serie di Millennium, che aveva fatto anche il remake della casa, che aveva cominciato con un corto online pazzesco che si chiamava Attacco di Panico, che era su questa città invasa dai videogiochi, erano effetti speciali pazzeschi, tutto fatto in casa, però effetti speciali incredibili, cose, dimostrando, ok, io questa roba la so fare a costo zero, se mi date un po' di soldi la facciamo bene, e in effetti chiaramente l'hanno fatto fare. Per cui insomma, sono queste le maniere. Gli attori, molti poi fanno questo tipo di passaggio, anche in America. Pensate, e molti sono bravi. Pensate a Mel Gibson, che è un regista secondo me straordinario. Pensate a Clint Eastwood, è un regista straordinario. A proposito, fa un altro film come attore e come regista. Non ce l'ha fatta a stare lontano dal set. 89 anni. Io l'ho anche visto, l'ho visto l'altro ieri il film. Posso dire? Non ci sono nulla. Embarghi. Sì, posso dirlo. Posso dirlo. Ci sono embarghi? No, non ci sono. Non ci sono embarghi. A me è piaciuto, mazza. Ma, e non è quello che sembra, perché dal trailer e dalla cartellonistica. Come si chiama il film? Si chiama Il Corriere, sulla storia del Corriere della Sera. No, scherzo, che lui fa il Corriere della Droga. dai trailer e dalla cartellonistica vi fanno molto pensare che sia un classico film di Clint Eastwood, durissimo, droga, lui appunto che fa il Corriere cattivo a 90 anni. In realtà è un film molto leggero. Allora, essendo un film di Clint Eastwood, ha anche tutta una parte seria e a me è piaciuta parecchio. Ma è un film pieno di ironia, appunto pieno di leggerezza. Su questo è paradossale, chiaramente, no? Questa anziana persona che il suo business è andato a rovina, e perché faceva il floricultore, gli va in rovina, ma chiaramente non ci sta ad ammettere la rovina. Siccome lui per lavoro viaggiava tantissimo in macchina, dice io ho viaggiato per 90 anni in macchina, non mi hanno fermato manco una volta, perché io proprio sono l'autista modello. E i corrieri della droga messicani gli dicono: bella vecchio, se ci porti questa droga noi ti strapaghiamo. E lui comincia a fare il corriere per la droga, ma lo fa proprio alla grande. Si ferma a trovare gli amici, la droga non la mette neanche nel doppio fondo dei sedili, la tiene lì nel pick up, proprio così, perché tanto lui non lo ferma nessuno. A un certo punto qualcuno lo fermerà, non vi dico che succede, chiaramente, insomma. Poi si dovrà confrontare, certo, poi si deve lui è un vecchietto che si deve confrontare con questi boss, ed è un vecchietto da altri tempi che ha fatto la guerra, per cui non è che si fa spaventare, però non gli può neanche menare, questo è evidente. Anche perché ha 89 anni. Sì, per cui con alcuni sviluppa un rapporto tipo nipoti, capito? Come va, come sta tua figlia? Ah, bene, come va, tutto a posto. Con altri che invece sono più arroganti, più cose, poi gli rimette a posto a parole, insomma, è veramente, è un film particolare, a me è piaciuto. Serve una mano? Salve, agente. Serve una mano? No, tutto a posto, grazie. Cosa porta? Noci pecan. Sto portando noci pecan a mia nipote. Pecan? Sì, noci pecan. Fa la peggior torta di noci del mondo. Mi dispiace per il marito, ma... E mi dispiace anche per le noci. La famiglia è la cosa più importante. Non fate come me. Ho anteposto il lavoro alla famiglia. Pensavo fosse più importante essere qualcuno da un'altra parte, invece del fallimento che ero a casa mia. Sono stato un pessimo padre. Un pessimo marito. Ho rovinato tutto. Che regia. Porca miseria. Ah, non ho detto poi nel mi film. Mi sfizia questo film. No, è bello. Mi sfizia. C'è anche un'altra storia nel film che non ho detto, mi sono dimenticato. Ed è la storia del poliziotto che lo cerca, che è Bradley Cooper. Che vuole farsi notare dalla polizia. ha capito dalle intercettazioni che c'è questo giro di droga, ma non riesce a capire chi è questo corriere che gliela fa sotto il naso. Non ci riesce, non lo trova da nessuna parte. A un certo punto addirittura loro si incontreranno, anche che cominciano a pattugliare le strade continuamente, si incontrano, ma nessuno sospetta mai di lui, ovviamente. Vecchietto di 90 anni, lo sì, credo. No, poi molto affabile, è lui che va dal poliziotto a parlargli, capito? E giovanotto, certo. Come va, capito? Insomma, lui è una vera vecchia volpe. Chiaramente. E la cosa incredibile è una storia vera, una storia verissima, di questo anziano novantenne che ha contrabbandato milioni di droga. Quando esce il film? Allora esce settimana prossima. Beh, mi consigli di andare a vederlo? Ma sì, sì. Posso andare a spendere questi? Quanto costa adesso il biglietto? 12 euro? No, dipende dalla sala in cui vai. 7 no, euro? Sì, 8, 9. Sì, sì. Ah, io vado in cinema di prima visione. Poi prendi, certo. Adesso molti cinema, quelli molto grandi, hanno anche le poltrone più fighe. Cioè, alcune poltrone in mezzo sono migliori delle altre. Si reclinano di più, hai più spazio per le gambe. E il biglietto costa di più, chiaramente. Ah, quindi tu prendi sempre quelle. Quelle VIPs. VIPs, esatto. I posti migliori. Ci sono le sale privé? No. No, non privé in quel senso lì. Lo so. No, non in quel. Vedi, perché tu pensi male, perché ci vai sempre nelle sale privé. Dicevo, perché è la prima cosa a cui penso. Che ne so, cinema, che ne so, sale private. Sì, io me lo affitto e mi faccio il mio spettacolo. Che ne so, con uno champagnino, un'olivetta, una cosa. Dici, amore, ti porto a vedere un film, siamo solo noi. Così. Ma tu fai il signore e compri tutti i biglietti della sala. Dici, posso farlo? Sì, fai il signore. Quanto mi costerebbe? Allora, una sala da... Beh, chiaramente se ti compri tutti i biglietti da sala lo fai per una sala grande, no? Che poi c'è lo schermetto piccolo. Cioè, la sala seria. La sala quanti da... posti? 300? 300 posti. Per 3x7, 21, 2000 euro me la cavo. Sì, esatto. 2000, 2000... Ah, pensavo peggio. Sì. Ma c'è mai stato uno che abbia prenotato tutta una sala? Sì, allora, si può fare, perché tu però solitamente non prendi la sera di punta. Cioè, alle volte, per magari feste di bambini, tu ti prendi una sala per fare i cartoni animati, però lo prendi il pomeriggio del martedì e te lo danno ma molto meno di 2000 euro, la danno anche a 500 euro, perché l'incasso che non fanno è certo, poco, chiaramente, per cui ti conviene. Vabbè, Vasquez, io ti ringrazio. Noi non ci sentiremo venerdì prossimo, ma ci sentiremo. Hai sentito che attenzione. Mio? Ma ci sentiremo. Questa è grande radiofonia. Ma ci sentiremo tra due settimane. O se ancora a Berlino. Tre settimane. Tre. Io torno il 17. Ai. Lo so, ma quando uno deve fare la copertura completa, fa la copertura completa. Cioè, non è che possiamo fare un po' e un po'. Giusto. Certo che lì fa freddo adesso, Beh, sì. Hai visto che cosa c'è? C'è il tornado Giuseppina che gira intorno dal polo. Ma ha abbracciato tutto il nord Europa. A noi del cinema non ci mette paura il freddo. Dici, eh? No. Ma andrei sempre con la tua giacchetta? No. Lui è sempre in giacca, sempre anche l'estate, sempre in giacchetta. Molto elegante. Un certo livello. È uno standard. Molto formale. È uno standard. Ah, standard. Beh, sì. Camicia celestina, giacca blu. Ho un elegante cappotto moda uomo. Che hai un paleton. Un paleton con sciarpa coordinata a grande critico. Sai che dovrei procurarmi il cappello invernale, quello un po', capito, un po' pesante da... Ma quella falda? Sì, esatto, cioè, esatto, il cappello anni 40 così, un po' invernale, perché sono figo, lo metto un po' storto, perché sono figo. Te lo regalo per il prossimo Natale, Vasco. Va bene, prossimo Natale per il cappello da critico cinematografico serio. Bellissimo. Grazie, Vasquez, ci sentiamo tra due settimane, tre. Senz'altro. Tre. Oh, Barbara!